Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Solite informazioni di servizio, il nostro sito radio24.it, lì trovate anche il mio blog Guardie o Ladri. Potete interloquire con me, lo trovate sotto il mio profilo, così come potete scaricare tutte le puntate di tutte le trasmissioni, la mia ma anche le altre, in tempo pressoché reale, oppure via podcast farlo quando meglio credete. Seconda informazione di servizio, la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, pochi giorni fa la mail appunto è stata raggiunta da una interessante lettera di un nostro radioascoltatore di Torino, è un pensionato pubblico, per anni ha lavorato all'interno del sistema sanitario nazionale e ha un problema di relazione con l'INPDAP, che come sapete è l'Istituto Nazionale di Previdenza proprio per i lavoratori del pubblico impiego. Come sapete non amo i casi personali, però sono tantissimi, milioni le persone che sono comunque legate a questo istituto, quindi abbiamo preso questo caso per cercare anche un po' di fare chiarezza e perché no per far conoscere la voce dell'INPDAP, perché oramai un po' tutti questi istituti sono da tempo coinvolti e interessati a rendere estremamente trasparente la loro informazione, quindi noi li ringraziamo per questo e ovviamente diamo loro modo di rispondere. Io do quindi il buongiorno al dottor Antonio Ruggero, che è il nostro radioascoltatore di Torino. Buongiorno Ruggero. Buongiorno dottor Galullo e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Grazie a lei e do il buongiorno alla dottoressa Zita Giraudo, che è direttrice dell'INPDAP proprio per le regioni Piemonte e Val d'Aosta. Buongiorno dottoressa Giraudo. Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Ruggero, buongiorno al... Grazie. Allora, direi Ruggero, partiamo dalla sua storia. Lei è un pensionato pubblico che con l'INPDAP ha avuto qualche problema. Lei nella sua lettera è anche abbastanza duro, si chiede a noi, ma lo chiede innanzitutto all'INPDAP, che cos'è questo carrozzone burocratico che allunga i tempi della burocrazia. Prego, dottor Ruggero. Allora, io sono da 13 anni in pensione dall'INPDAP dal 1 gennaio 97. Per questi 13 anni ho percepito regolarmente la mia pensione, mi sono iscritto al sito dell'INPDAP, che è un sito sul web bellissimo, dove lei può sapere in tempo reale gli importi delle sue pensioni, può scaricare il CUD e tutto il resto, per cui davo per scontato che l'INPDAP fosse diventato davvero un ente burocratico previdenziale di buona efficienza. Però intanto che ottobre del 2009, 5 mesi fa, mi arriva una raccomandata dall'INPDAP, non di Torino, da dove io ho lavorato. E risiede, certo. Ma da Alessandria, una prima raccomandata molto sintetica, in cui mi dicono che stanno rivedendo il mio fascicolo pensionistico, che mi promettono eventuali arretrati che potrebbero nascere dal riconteggio della mia pensione. E quindi questo ben venga, voglio dire, se... Benissimo, ecco. Sono contentissimo, dico che bello, vede, ancora più efficiente l'Inpdap perché potrebbe darmi degli arretrati. 3 giorni dopo un'altra raccomandata, sempre dall'Inpdap di Alessandria, in cui incomincio ad avere qualche preoccupazione, perché incominciano a dire che aprono un procedimento amministrativo nei miei confronti per recupero di eventuali indebiti somme corrisposte in più sul mio trattamento pensionistico. Questo, le ripeto, io sono in pensione da 13 anni, certo, quindi non mi ricordavo. Quindi diciamo così che lei passa da un momento di gioia a un... Dopo 3 giorni un'altra raccomandata che mi spaventa, mi danno, io non ero neppure a Torino, mi danno un mese di tempo, dice entro un mese, entro il 16 del 2009 deve, apriamo questo procedimento, lo chiuderemo e le faremo sapere il conteggio di eventuali somme che dovrà restituire all'INPDAP. Ecco, ma la storia poi come prosegue e come si conclude? La storia prosegue, io vengo passano le feste di Natale, ai primi di gennaio, altra raccomandata dell'INPDAP da Alessandria, in cui prendono la decisione finale, dice i conteggi li hanno fatti, viene fuori che io ho percepito in più 6 euro, praticamente 6 euro al mese dal 1 gennaio 97 euro di allora, quindi erano non so circa 12.000 lire, certo. 12.000 lire le ho percepite in più per 13 anni, per cui io devo restituire all'INPDAP l'importo di 940 euro. La cosa poi strana che non riuscivo all'inizio a capire è che questa somma viene suddivisa. In una piccola parte viene imputata all'ente, al mio datore di lavoro che era il Servizio Sanitario Nazionale, mentre il restante, la cifra grossa di 700 e più euro, mi viene addebitata dicendo che io l'ho percepita erroneamente e che quindi la devo restituire. Certo, e poi dopo lei scopre... Devo solo notare una piccola cosa. Sì. Questa raccomandata del dicembre 2009, l'INPDAP, mentre scrive ed invita il servizio sanitario, lo invita a restituire la somma di 162 euro, al povero pensionato, al sottoscritto, non è che mi invita a restituire 777 euro, ma che fa? Automaticamente prende e tira giù tre rate da 200 e rotti euro sulla sua pensione. Sulla mia pensione. Allora, il caso raccomandata mi arriva il 6 gennaio. Il 15 gennaio la mia pensione era già ridotta di 215 euro. Senza che io ne sapevo niente, e questa lettera... Mi benissimo, arrivata. Allora il caso è chiarissimo, dalla gioia si passa allo sconforto, mesi di lavoro per scoprire che non doveva ricevere ma deve dare 6 euro al mese, il conteggio l'abbiamo sentito, 940 euro complessivi. Io capisco che probabilmente lei, dottoressa Girado, non la reputerà una vicenda kafkiana, però contorta quantomeno sì, non so il suo giudizio, Giraudo, prego. No, io capisco la difficoltà di interpretare le diverse note che sono pervenute al dottor Ruggero, questo mi dispiace. Diciamo che la liquidazione definitiva della pensione è avvenuto dopo il trattamento provvisorio che era stato predisposto dall'amministrazione di appartenenza del dottor, certo, Ruggero. Beh, però 13 anni si fa in tempo, sì, a... Ecco, ma questo, ecco, diciamo, innanzitutto diciamo che l'istituto fin dal 2000 ha messo argine, ha posto argine a questo problema dell'arretrato, che era stato originato dall'accentramento negli istituti di previdenza della liquidazione della pensione. Dopo il decentramento abbiamo cercato immediatamente come istituto di porre rimedio e dal 2000 noi liquidiamo immediatamente il trattamento definitivo di pensione. Essendo questa una cosa precedente al 2000, è giunta a conclusione soltanto nel 2009. No, diciamo che tutti quelli che hanno cominciato ad andare in pensione dal 2000, esatto, immediatamente hanno trattato. Ma qui siamo in un tempo anteriore al 2000, precedente al 2000, e quindi ovviamente così non è stato. Queste notevoli pratiche che hanno cominciato ad essere smaltite. Noi non abbiamo voluto creare ulteriore arretrato, per far questo abbiamo messo uno sbarramento. Dal 2000 in poi, da quel momento, abbiamo cominciato a liquidare il definitivo e nel frattempo abbiamo cominciato a recuperare l'arretrato. Certo, certo. Purtroppo, infatti, il fatto che la pratica è stata lavorata ad Alessandria è perché a Torino ci sono notevoli carenze di personale, quindi questo era un supporto a Torino per cercare, capisco che sono tanti. Ma lei ha ragione, ma una cosa semplice, non si potrebbe dire a chi viene raggiunto, così diamo un'informazione di servizio a tutti i radioascoltatori, non si potrebbe dire con una bella lettera, guardate, voi siete precedenti al 2000 e quindi mi dispiace, ma cadete nell'arretrato. Sappiate che, ahimè, potreste ricevere se il calcolo è al vostro favore o, ahimè, dovrete dare se il calcolo vi penalizzerà. Però mandare prima una raccomandata in cui si dice ti diamo, poi un'altra in cui dicono ti prendo, beh, insomma, francamente la cosa è sconcertante. Diciamo che questa situazione è assolutamente un'eccezione, perché normalmente il conguaglio è positivo. Purtroppo in questo caso c'è stato un errore dell'ASL in questo caso e quindi ha determinato un conguaglio negativo. Altrimenti la generalità dei casi produce un conguaglio positivo. Va bene, comunque abbiamo dato un'informazione di servizio a tutti i nostri radioascoltatori. Occhio dovunque voi vi troviate alle lettere che possono giungere dall'INPTAP per la liquidazione di trattamenti di fine rapporto di lavoro, di pensioni, quindi al termine della vostra attività lavorativa, perché potrebbero esserci spesso delle sorprese positive, talvolta anche negative. Grazie ai nostri ospiti, in regia Fabio Cantadori, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.